Ok, allora innanzitutto grazie appunto per l'ospitalità. Allora, domani si terrà questa iniziativa, il tesseramento hanno occupato appunto a Roma alla Sapienza. Saremo ospiti sia noi che i ragazzi appunto che hanno, i compagni che hanno realizzato il documentario Salito Lindo, saremo ospiti appunto all'iniziativa Tesserando Occupato la Sapienza, uno sguardo sul Messico, appunto una duplice iniziativa, mettiamola così. La prima parte dell'iniziativa sarà dedicata alla produzione del documentario Salito Lindo, che è un Salito Rebelde, che è appunto un'autoproduzione, un documentario realizzato da alcuni compagni che hanno fatto un viaggio un paio d'anni fa in Messico, li abbiamo conosciuti giù, abbiamo collaborato con loro, sia noi che l'editoriale indipendente Kairos, che probabilmente avrete già conosciuto anche per l'edizione delle fiabe zapatiste, delle fiabe resistenti del subcomandante Marcos, che è stata presentata varie volte a Roma in questi ultimi mesi. Da questa collaborazione, dalla loro esperienza, dal loro lavoro insomma molto importante, essendo anche il primo lavoro, nasce Salito Rebelde, questo documentario che è un viaggio attraverso i percorsi di costruzione dell'autonomia messicana, attraverso appunto interviste, cenni storici e racconti non solo della realtà zapatista, però di tutte quelle realtà che all'interno appunto del Messico Rebelde fanno del percorso di costruzione quotidiana dell'autonomia il loro, come si dice giù, eche de luce, insomma la loro vocazione di lotta. Quindi la prima parte sarà dedicata appunto a questa presentazione del documentario Salito Rebelde, e la seconda invece sarà una parte di dibattito, una chiacchierata con noi, appunto con i compagni e le compagne del Nodo Solidale e di Kairos, i compagni che hanno realizzato il documentario, appunto per approfondire vari temi sulla questione messicana, non solo appunto quindi sulla questione dei percorsi d'autonomia zapatista, però anche magari fare anche un punto, un quadro della questione appunto della sia storica che dell'attualità dei movimenti sociali messicani. È importante anche molto per noi fare questo, proprio perché con i compagni e le compagne del Tesserande alla Sapienza abbiamo già collaborato in maniera molto positiva alla realizzazione del passaggio della carovana dei familiari studenti degli Utsinapa l'anno scorso, proprio in questi giorni d'aprile, praticamente era, se non ricordo male, il 29 d'aprile, quindi esattamente un anno fa, il passaggio della carovana degli Utsinapa sia all'ambasciata che all'ambasciata messicana che alla Sapienza, dove c'è stata un bellissimo e importantissima discussione con loro, chiacchierata e dibattito, e quindi sarà anche poi l'occasione per fare il punto sulla situazione, sulle novità, sulle ultime notizie, e chiarire anche delle curiosità, o comunque insomma poter raccontarci sia l'esperienza del Nodo Solidale sia appunto le ultime notizie che vengono giù dal Messico. Mi sentite? Sì, sì. Sì, comunque il lavoro che fate come Nodo Solidale all'interno della città di Roma è molto importante. Se ci puoi parlare un po' del collettivo, come il lavoro che fate. Sì, allora il Nodo Solidale è un progetto, un collettivo politico che nasce nasce da alcuni viaggi, dall'idea di alcuni compagni che sono andati a vivere, hanno viaggiato per parecchio tempo in Messico intorno al 2006, 2005-2006. È un periodo molto particolare, soprattutto per quanto riguarda la questione zapatista, ovvero il periodo della nascita dell'altra campagna zapatista, dell'idea della Sesta, quindi appunto di questa chiamata internazionale attorno ai principi dello zapatismo, il periodo del consolidamento dell'autonomia quotidiana, appunto, del percorso di autonomia che fanno nelle comunità zapatiste, e anche il periodo dell'insurrezione di Oaxaca nel sud del Messico, quindi di questa insurrezione che portò addirittura all'occupazione della città intera da parte dei movimenti sociali per più di qualche mese. È il periodo intorno a questo periodo, appunto, nasce il Nodo Solidale come, diciamo, piccolo strumento, piccolo collettivo, all'inizio proprio per interessamento, per conoscere, per avvicinarsi a queste realtà, per cercare di capirle ancora prima che per iniziare a collaborarci insieme, per cercare di capire i funzionamenti, la storia di questi percorsi di autonomia in Messico. Nasce per questo motivo e avanza, appunto, anche con l'idea non solo di collaborare attivamente con quelle realtà che ci sentiamo molto vicine in Messico, sia le realtà zapatiste che le realtà dello Stato di Oaxaca, come i centri sociali di Città del Messico, come realtà autonome che sono aderenti alla Sesta in tutto il paese, ma anche con l'idea di creare anche un dibattito qua, di portare degli spunti secondo noi interessanti, però questo è il tutto da, appunto, fa parte del dibattito sulla questione dei movimenti sociali e dell'auto-organizzazione, dell'autonomia che abbiamo conosciuto, imparato e dibattuto già a Messico. Per noi è importante anche, oltre, appunto, alla collaborazione attiva con le realtà messicane, anche, appunto, portare quel dibattito che ascoltiamo giù in Messico, portarlo anche qua, fa le realtà che ci sentiamo più vicine, sia nella città di Roma che nel resto d'Italia. Il Nodo Solidale fa parte anche di un'alleanza, diciamo, di un coordinamento internazionale che si chiama La Pirata, del quale, appunto, fanno parte il collettivo zapatista di Lugano e Svizzera e tanti altri aderenti, compagni e compagni individuali che stanno sia in Germania sia a Bologna, insomma nel resto d'Italia, con il quale, appunto, portiamo avanti una serie di progetti soprattutto in territorio zapatista. Il più attivo in questo momento è il progetto del pane, appunto il progetto di collaborazione nella costruzione di alcuni laboratori di panetteria, diciamo di panetteria locale, attraverso la collaborazione con le scuole secondarie autonome del territorio zapatista, e la costruzione di forni appunto da utilizzare per questi laboratori e per la formazione di collettivi autonomi di panetteria all'interno delle scuole secondarie nei vari calecol zapatisti. Tutti questi progetti ovviamente sono autofinanziati, il finanziamento di questi progetti viene dal lavoro delle compagne e dei compagni, attraverso le iniziative nei centri sociali, attraverso le sottoscrizioni che vengono date durante le nostre iniziative. È un collettivo totalmente autonomo, quindi non riceve nessuna forma di finanziamento né da sindacati, partiti o istituzioni varie. Questo, diciamo, un po' il lavoro, detto proprio in soldoni, che si fa con le realtà messicane. L'altro lavoro, ovviamente quello importante, è il lavoro di controinformazione, appunto non solo sulle questioni non solo appunto su quelle questioni del dibattito politico, ma anche sulle emergenze che spesso riguardano il territorio messicano. Ne avete, appunto, visto la gravità per quanto riguarda il dramma degli Yotsinapa, appunto, a quasi due anni dalla scomparsa dei ragazzi. Quindi anche per noi è fondamentale, appunto, tessere reti di solidarietà internazionale con le realtà che lottano e con le realtà che soffrono la repressione, che sono tante e differenti, purtroppo, in Messico, e tessere, appunto, quel famoso filo rosso che unisce i movimenti, facendolo anche, provando anche di fare il contrario. Probabilmente alle volte abbiamo anche provato e c'è stato molto interesse anche da parte delle compagne e dei compagni messicani nell'ascoltare i racconti e lotte che vengono dall'Italia, dell'occupazione dei centri sociali, delle case, del movimento NOTAV, dei movimenti contro i megaprogetti inutili e devastanti. Queste tutte in realtà del movimento e lotta che hanno destato parecchio interesse anche all'interno delle compagne e dei compagni messicani, e quindi cercare di creare una reciprocità, quindi non solo la solidarietà da una parte, ma cercare anche di tessere realmente questo questo legame, questa complicità, mettiamola così. Perfetto. Per sostenere il vostro lavoro, domani al Tresserrande Occupato, a seguito dell'iniziativa, ci sarà il DJ set del Pince Perro che ci ha regalato questa fantastica playlist oggi. Troverete anche tutto il materiale informativo che il Nodo Solitale continua a portare dal Messico, tra cui le varie dichiarazioni e i vari pamphlet informativi. Noi ti ringraziamo e ci vediamo domani alle 18. Io ringrazio voi, come sempre ringrazio anche il Pince Perro, perché comunque è sempre presente e ci dà sempre la mano in tutte le iniziative, ovviamente i compagni e le compagne del Tresserrande, e Radio Onda Rossa sempre per ospitarci volentieri. Quindi insomma ribadisco insomma l'orario alle 18, quindi al Tresserrande, all'università, però penso che quasi tutti lo conoscete, e la proiezione dalle 6 in poi, proiezione di Sierito Rebelde dopodiché dibattito e chiacchierata insomma con noi, ci sarà anche un aperitivo e si balla col Pince Perro. Ok, grazie, ti salutiamo, grazie a tutti e a tutti, allora buona giornata, ciao.